6. Come vola un aereo? A proposito, sapete come vola un aereo? Osservate le ali del Blériot 11 sopra la vostra testa. A causa della loro forma, detta profilo, l'aria scorre più velocemente sopra che sotto l'ala. Questo fenomeno crea una differenza di pressione attorno all'ala, che genera una forza aerodinamica. Questa forza aerodinamica si scompone in una forza di portanza, diretta dal basso verso l'alto, e una forza di resistenza. Diretta all'indietro, la portanza equilibra la massa dell'aereo e lo solleva. Maggiore è la velocità dell'aria attorno all'ala, maggiore sarà la forza di portanza. La resistenza, invece, è diretta all'indietro. Essa impedirebbe quindi all'aereo di avanzare senza una forza di propulsione diretta in avanti. Questa forza di propulsione proviene dall'energia prodotta dal motore. Maggiore è la potenza del motore, maggiore è anche la forza motrice. L'aereo aumenta quindi la sua velocità. Con l'aumento della velocità aumenta anche la portanza, rendendo possibile l'incremento della massa. Durante tutta la visita al Musée Safran, assisteremo quindi a una vera e propria corsa alla potenza.